Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10-8 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e oggi cercheremo di raccontare questo 2 giugno come farebbe Il riposo del guerriero, quindi tra poco vi dirò l'argomento della giornata. Voglio ricordarvi però in apertura, così poi non mi dimentico di farlo, come a volte succede, che più tardi, intorno alle 11.45, giocheremo con Manè in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa i biglietti per l'ingresso della mostra a Palazzo Ducale a Venezia. Per riuscire a portarvi a casa i biglietti dovete cercare di associare una canzone che vi faccio ascoltare al titolo di un'opera di Manet, e la canzone è questa. Spiagge, i corpi abbandonati, gli attimi rubati, mentre la pelle brucia. Insomma, la canzone l'avete riconosciuta, è anche facile. Credo che l'associazione sia francamente molto molto semplice. Comunque sia, il numero per prenotarvi 800 24 00 24, si giocherà intorno alle 11.45. ma veniamo invece all'argomento, alla giornata di oggi. Ho pensato, visto la festa, di parlare d'Italia, ma d'Italia nel senso di personaggi che hanno fatto l'Italia. Quali sono i personaggi che hanno caratterizzato, insomma, la nostra penisola, quelli dei quali il tutto il mondo parla, insomma, i personaggi che hanno fatto davvero l'Italia. Quindi scaveremo nel passato, torneremo indietro con una macchina del tempo, però parleremo anche di quelli attuali. Anzi, se avete anche voi qualche personaggio che vorreste far entrare in questa classifica, non facciamo una classifica, ma in questo elenco, scrivetecelo al 349-238-6666. E quindi, per cominciare, per cercare di far capire come l'Italia sia entrata nel mondo, a far parte, insomma, del mondo in tutti i sensi, e anche ballando e anche cantando, ho scelto questa canzone. Shake it, baby, shake it, cause I love it when you take me by the pizzeria, that's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. Everybody go get fish out of Mambo Italiano. Non è stato facile scegliere una versione di questa canzone di Bob Marley del 54, portata a successo da Rosemary's Clooney. Poi forse ricorderete la versione di Dean Martin, poi è stata cantata anche in italiano da Carla Boni, e poi, insomma, molti se la ricordano perché Sofia Loren la ballò in Pane e Amore. Parleremo anche di Sofia Loren, perché è uno dei personaggi sicuramente che hanno fatto dell'Italia quella che è, insomma, che tutto il mondo conosce. Claudio Giorgione, buona domenica, ciao. Ciao. Eccoci qua, curatore del Dipartimento del Museo Arte e Scienza del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Lunghissimo, però, perché il nome del museo è lungo, perché sì, si chiama così adesso. Ripetiamo. Per ora. Per ora, perché poi cambierete, cioè, non si sa. Cioè, no, che tutti si ricordano, no, il vecchio nome, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica. Io me lo ricordo, ecco, così, infatti. Per me è complicato ricordare il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Sì. Perché partiamo da lui. Sì. Quest'uomo che occupa gran parte dei miei pensieri, almeno al lavoro, insomma. Cos'è che ti affascina di più di Leonardo da Vinci? Senz'altro, beh, il fatto che, pur lavorando su di lui nella divulgazione, nella valorizzazione da più di 10 anni, sempre mi incuriosisce, sempre ci sia qualcosa di nuovo da scoprire su di lui, e quindi questa fonte continua di curiosità, di interesse, un po' come fu lui, perché senz'altro, se vogliamo partire da una parola che definisce Leonardo, sì, curiosità è quella che meglio lo rappresenta. Quindi tu dici, è un uomo dei suoi tempi, in fondo, cioè è un uomo straordinario. Indubbiamente, non gli tolgo una virgola, però tu dici, ai suoi tempi era normale, diciamo, per una persona curiosa occuparsi di tutto. Sì, assolutamente, hai centrato proprio l'argomento, perché è importante guardare Leonardo e farlo pensare come un uomo dei suoi tempi, perché ovviamente fu un genio, questo nessuno lo vuole negare, ma un genio attento a quello che stava intorno a lui e nella sua epoca. Quindi non facciamolo pensare con i pensieri di un uomo del XX, del XXI secolo, come succede. E poi, come dici tu, sì, all'epoca era normale che grandi personalità fossero al contempo ingegneri, architetti, si occupassero di anatomia, perché la cultura era meno divisa, sì, di assolutamente, oggi. In fondo, cioè, mi viene in mente una, sembra una banalità, ma c'entra: astrologia e astronomia, che oggi sono due cose assolutamente opposte, in realtà all'inizio nascono insieme perché tutto si univa, ecco, certo, quello che era proprio la scienza, ma anche il pensiero, certo, e quindi lui fa parte proprio del suo tempo, leggeremo così. Cercheremo anche, cioè, cercherò di capire da te qualche curiosità, qualcosa che non è stato tutto è stato detto e raccontato, ma ci sono degli aspetti che probabilmente non conosciamo. E quindi parliamo anche di Leonardo da Vinci, ma non soltanto, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Beh, intanto Claudio, lo sa, moltissimi lo sanno, ma ripetiamolo, perché Leonardo da Vinci appunto è da Vinci, certo, però e non da Milano. Esatto, non è da Milano, eppure è molto legato ovviamente a questa città. Certo, sì. Beh, al di là che molti lo scambiano proprio per un cognome, in America è più conosciuto appunto come Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci. No, Leonardo, dico sempre. Sì, è legato tantissimo a Milano perché nasce a Vinci, vicino, sì, a Firenze, si forma a Firenze, però passa numericamente gli anni più importanti della sua vita qui a Milano, perché vi arriva quando ha 30 anni, nel 1482, vi rimane per 19 anni e negli anni più importanti del Ducato Sforzesco, poi vi ritornerà ancora in età francese, quindi ci ha passato la maggior parte della sua vita attiva. È vero che andava sempre con la Gioconda sotto braccio? Oppure è un aneddoto che non è... Dunque, ma... Come tutti gli aneddoti, sì, hanno una parte di bufala e una, certo, parte di verità, ossia che la Gioconda viene iniziata da Leonardo nel 1503 come un ritratto, sì, di Lisa Gherardini, quindi Monna Lisa, Madonna Lisa, ma Leonardo non lo consegnerà mai, rimarrà sempre con lui, lo seguirà in tutti i suoi successivi spostamenti e lui continuerà a perfezionarlo tenendolo con sé fino alla fine, quindi non proprio sotto braccio ma con tutti i suoi traslochi fino all'ultimo in Francia seguì il maestro. Avrei potuto perderlo qua a Milano, però al posto di consegnarlo. E invece no, è arrivato in Francia, verrà donato all'allievo, sì, Salahi, e poi vi rimane, perché sottolineo, tutti i dipinti che sono al Louvre di Leonardo ci sono per vicende collezionistiche, non sono stati requisiti da Napoleone, perché spesso sento queste invettive. C'è qualcosa che non è stato? In che senso? Leonardo da Vinci, che non ha fatto? Che non ha fatto... Di cui avrebbe voluto occuparsi ma non ne aveva tempo, oppure... Ma in realtà questa vale un po' per tutto, ossia, sì, lui ha affrontato tantissimi argomenti, però di tutto questo si è fermato quasi sempre fino a un certo punto, all'evoluzione dell'idea, alla progettualità, ma quello che non ha fatto quasi mai è quello poi di concretizzare fisicamente le sue idee, un po' perché non aveva il tempo, non aveva le capacità, i collaboratori, e un po' perché non gli interessava. A lui interessava pensare, poi, esatto. E il fatto finanziario invece? Questo è importante, certo, è importante, e dobbiamo sempre tenerlo presente, perché prima di tutto lui era una persona molto attenta ai soldi, nei suoi codici abbiamo registri di spese, del dare avere, di quello che comprava, di quello che gli Quindi rimaneva. Quindi era molto attento da questo punto tantissimo, di vista. Tantissimo, tanto che segna molto spesso il suo giovane allievo Salahi, a cui voleva bene ma che era un po' furfantello, spesso gli rubava dei soldi e lui lo ricordava nei suoi codici. E amava spendere, si vestiva bene, e abbiamo tante note di spesa, e sapeva che per poter portare avanti tutti i suoi interessi privati aveva bisogno di un ottimo stipendio e quindi ingraziarsi bene i suoi committenti. Era un vanitoso? Abbastanza, sì, sì, sì, sì. Sapeva ben stare nella corte e non era assolutamente quella persona disordinata, un po' il mito dell'inventore. Esatto. Come la si vuole rappresentare? Assolutamente no. È una persona un po' diversa da questo punto di vista. Mi piace questo aspetto, anche un po' di vanità. In fondo ci sta, perché forse non ce lo si aspetta, appunto. No, esatto. Lo si immagina più come un Einstein, no? Con i capelli spettinati, e che poi invece non è così, è solo nell'immaginario. Maria Leonarda Leone, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Elena da Leone ha appena pubblicato un volume intitolato I personaggi che hanno fatto grande il Medioevo, perché insomma il Medioevo è un momento importante, non ce lo dobbiamo dimenticare, con personaggi che Mario Leonarda ha scelto, che hanno rappresentato qualcosa. E vorrei cominciare con te, Mario Leonarda, da Benvenuta ben in casa. Ma cos'era? Era un erborista, una strega? Che cos'era? Chi era lei? Sì, in realtà, ecco, come strega è passata grazie all'Inquisizione. In realtà come lei sempre, è ovvio che non lo era. Ecco. Era una guaritrice, sì, diciamo che sapeva usare molto bene le erbe e poi ovviamente univa questa sua conoscenza delle erbe, un po' quella che era anche lo spirito medievale, quindi questo affidarsi a delle preghiere che assomigliavano più a formule magiche, sì, che a preghiere. E poi ovviamente l'importante è cioè che fu la prima a essere giudicata per questo motivo da un tribunale dell'Inquisizione, perché all'epoca, nel 1370, ancora la caccia alle streghe non era cominciata, quindi è solo del secolo successivo il Malleus Maleficarum, che era questa specie di manuale del perfetto cacciatore di streghe, e quindi fece un po' da apripista, diciamo che diede agli inquisitori tutti i successivi capi d'accusa che poi verranno nominati per ogni processo di stregoneria, e in un certo senso le andò bene perché evitò il rogo, essendo la prima ancora non c'erano dei canoni per giudicarla una strega, e quindi venne accusata di magia ereticale. E l'inquisitore puntò tutto sul fatto che lei, cioè questo in 8 udienze, quindi dopo tantissimi interrogatori e probabilmente dopo delle torture, le fece dire che lei evocava spiriti maligni e che faceva quindi quasi degli esorcismi. E tutto questo non era molto diverso da quello che facevano i sacerdoti uomini. Il fatto era che Benvenuta ovviamente era una donna e quindi non si poteva permettere le stesse cose. Ed era magari anche molto piacente. Che di solito succedeva anche quello, no? Ecco. Questo dei documenti non si capisce. Ecco. No, però diciamo che è un clima, anche il fatto che fosse una vedova e che nonostante non avesse bisogno di soldi aveva usato risposarsi, e già questo era un fatto. Guai, che... certo. Sì, esatto. Insomma, una fitoterapeuta, chiamiamola così. Ecco. Sì, chiamiamola così. Da questo punto di vista, credo Giorgione, allora di Leonardo si racconta delle sue pozioni che servivano a... Cosa faceva? È vero che per studiare i cadaveri ne faceva di ogni? Ma lui, come sempre, animato dalla sua curiosità di sapere, si è avvicinato all'anatomia prima come artista, cioè per lui l'arte doveva rappresentare la realtà e quindi il corpo umano doveva essere conosciuto. E inizia quindi a studiare corpo umano, muscolatura, scheletro, e nell'ultima parte della sua vita, quindi quando ormai aveva 50 anni, inizia invece a fare autopsie per capire com'è all'interno il corpo umano. La sua più grande rivoluzione ovviamente è stata la rappresentazione del corpo umano. Fino a quel momento c'erano disegni molto molto infantili, molto semplici dell'anatomia, e i suoi disegni anatomici sono una completa rivoluzione. Quindi ovviamente era vietato compiere autopsie se non pochissima a scopo universitario. Vi ricordo che Leonardo non aveva rapporti con il mondo dell'università, cercò di avvicinarsi, ma lui non era considerato un accademico perché era un artista, quindi un artigiano. Sì. Quindi era considerato comunque un artista, malgrado tutto. Artista e ingegnere, quindi un uomo del fare, non un uomo di mente. Non del pensiero. No. E invece lui fu uno dei primi ad abbinare questi due aspetti. Federico II, Maria Leonarda. Sì, intanto va detto subito che è italiano, ma più ius soli, dal momento che era appunto, lo conosciamo tutti come Federico II di Svevia, e infatti il padre era della dinastia degli Svevia, quindi questi principi tedeschi, e la madre Costanza d'Altavilla faceva parte di una dinastia normanna che però da diverse generazioni regnava in Sicilia. E Federico II nacque nelle Marche, a Iesi, e fu sempre molto legato alla nostra penisola, tant'è che la sua corte stabilì la sua corte poi nel sud dell'Italia. E appunto la sua corte è un po' l'emblema di tutte le corti medievali, quindi c'erano saltimbanchi, questi zoo esotici, le donne bellissime, però c'è anche un di più, perché Federico II era amante della cultura, delle lettere, quindi si circondò di personalità e di autori, di intellettuali, e la sua mente aperta lo portò anche ad andare oltre le incomprensioni religiose e accogliere a corte anche ebrei e musulmani, che questo era un fatto non del tutto scontato in quell'epoca. E questo ovviamente non gli facilitò i rapporti con la Chiesa, con cui già non aveva grandi affinità. Infatti Federico II, e qui forse sta la sua peculiarità, rivendicava, fu uno dei primi, un potere statale che fosse indipendente dalla Chiesa. In pratica chiedeva al Papa di non intromettersi troppo faccende. Sì, non riconosceva il potere temporale a quanto pare. Ecco, sì. Claudio, che rapporti aveva invece Leonardo con la Chiesa? Ma fondamentalmente di grande indipendenza, ossia per cultura, e ovviamente era cristiano, all'epoca non c'era stata ancora la riforma, e segue quella che è la tradizione nell'iconografia delle opere d'arte. Dopodiché per lui la Chiesa aveva un poco significato dal punto di vista religioso, perché lui sempre più durante la sua vita identificava la presenza del divino proprio nella natura, che per lui era un grande organismo vivente, generatore di vita. Quindi diciamo che si adeguava a quelle che erano le consuetudini, ma non gli interessava. Per cui tutte le teorie su un Leonardo e varie sette sono assolutamente lontane dal suo essere. Enrico Dandolo è l'ultimo personaggio del quale parliamo, Maria Leonarda. Diciamo, l'ho scelto per rincuorare un po' tutti quelli che vedono la loro pensione sempre più lontana. Ricordandolo, fu il 41esimo doge di Venezia e lo fu però a un'età notevole, venne eletto a 85 anni quando era anche già cieco. Probabilmente la scelta del consiglio era dettata dal fatto che pensavano di trovarsi di fronte a un vecchietto malleabile. Io posso dire che poi campare a quell'epoca fino a 85 anni vuol dire 120 di oggi, più o meno. Tra l'altro lui era una cosa, si vede che era una cosa genetica, perché anche il padre morì che aveva quasi 100 anni, e infatti anche lui addirittura a 92 anni conquistò Costantinopoli, decise di partire per la quarta crociata, quindi ce lo possiamo immaginare sulla prua della sua galea tutto vestito da guerriero in mezzo alle frecce che gli piovevano intorno, e a quest'età compì questa grande impresa che segnò non soltanto l'arrivo dei famosi quattro cavalli di bronzo che oggi in copia si vedono a San Marco, ma anche l'inizio per Venezia dell'impero marittimo. E lui morì purtroppo senza ritornare a Venezia perché per un'ernia inguinale, e fino a quel momento non si era goduto neanche un giorno di pensione. Anche insomma, una banalità a quanto pare, purtroppo, di un grande personaggio. Però grazie Maria Leonarda Leone, voglio ricordarvi grazie il libro I personaggi che hanno fatto grande il Medioevo, Newton Compton. Grazie ancora, buona domenica. Grazie, buona domenica. Credo Giorgione c'è la pubblicità, visto che Maria Leonarda ha parlato dei quattro cavalli, ecco, io poi volevo parlare del cavallo di Leonardo da Vinci, che a Milano è lì, molti non lo sanno, neanche i milanesi sanno né dov'è, né cos'è, né com'è, e invece vorrei parlarne perché insomma, ha una bella storia. Il riposo del guerriero. Personaggi che hanno fatto grande l'Italia, e stiamo parlando principalmente, ma non solo, di Leonardo da Vinci, perché c'è Claudio Giorgione che è ospite qui con me in studio, però avete sentito, mano a mano introdurremo altri personaggi. Allora, il cavallo di Leonardo da Vinci. Il cavallo di Leonardo è una questione interessantissima. Ma neanche io la so, so che c'è, l'ho visto, però non la conosco bene. Prima di tutto è doveroso dire che il cavallo che noi abbiamo è stato il famoso cavallo donato, no? Ossia, un imprenditore americano si è innamorato della vicina di Leonardo, adesso la racconteremo, ha commissionato a una scultrice giapponese questa scultura. Quindi diciamo che questo è un omaggio al cavallo di Leonardo, non è il cavallo di Leonardo, anche se è interessante perché è stato fuso in maniera simile a quella che Leonardo aveva pensato. Che cos'era questo cavallo? Il progetto di un grande monumento equestre al padre di Ludovico il Moro, Francesco Sforza, che gli venne commissionato nel 1490. Infatti, in uno dei codici di Leonardo, il manoscritto che è a Parigi oggi, proprio nel frontespizio c'è scritto AD, non mi ricordo il giorno, 1490, cominciai questo libro e cominciai il cavallo. Quindi siamo proprio in un momento in cui Leonardo senz'altro aveva già studiato parte di questo monumento equestre, ma poi si concentra solo sulla figura del cavallo, quindi studia l'anatomia esattamente come faceva per il corpo umano, è interessatissimo proprio anche alla muscolatura del cavallo, un cavallo che avrebbe dovuto poggiare solo su due zampe, le altre due sarebbero state alzate, sarebbe stato immenso. Ed è per questo che Leonardo studia, nel Codice di Madrid abbiamo tantissimi disegni, un sistema di fusione rivoluzionario a placche, cioè praticamente era impossibile fondere questo cavallo in un'unica colata. Sì. Lui pensa anche a questo sistema, ma qual era il problema? Che il bronzo fuso gettato nella forma non avrebbe potuto raggiungere l'ultimo, diciamo, anfratto. Sì. E quindi non si sarebbe potuto fondere in maniera corretta, quindi studia una fusione a placche. Riesce a realizzare il modello in terracotta grandezza naturale che si trovava nel suo laboratorio, e dove era il laboratorio di Leonardo qui a Milano, era in Corte Vecchia, e la Corte Vecchia è quello che oggi è il Palazzo Reale di Milano di fianco al Duomo. Perché Corte Vecchia? Perché la corte ormai l'aveva abbandonata quando nel 1468 era stato realizzato il Castello Sforzesco. Quindi diciamo lui occupava degli appartamenti, nel cortile stava questo immenso cavallo di terracotta, ma quando i francesi nel 1499 arrivano a Milano lo usano come tiro a segno. Ecco. Bene. E quindi ne lo capiscono sicuramente l'importanza, visto che lo usano come tiro a segno. Sì, e purtroppo quando ci si mette di mezzo guerra, qui sedi, è andato perduto. È andato perduto, purtroppo. E lo stesso Leonardo ovviamente non ci ha più messo mano, perché cambiano poi i padroni. Ecco, quindi la scultura di bronzo che invece possiamo vedere a Milano ha quelle le stesse fattezze, è più piccola. No, cerca di interpretare le dimensioni così come quelle che pensate da Leonardo. La scultrice si chiama Nina Akamu, giapponese. Sì. Ma americana, e quindi diciamo che ci dà un'idea di quella che poteva essere l'opera di Leonardo. È incredibile, davanti all'ippodromo di San Siro alcuni hanno vagheggiato che dovesse stare laddove Leonardo l'aveva pensata, ossia davanti al Rivellino, cioè l'ingresso principale del Castello Sforzesco. La sposteresti lì, al posto della Tour d'Espouse, cioè la fontana che c'è? Non lo so, adesso. È difficile da dirsi, probabilmente no. Secondo me sta bene dove sta, l'ippodromo è un luogo bellissimo, non è valorizzato come dovrebbe, no. Ma se fosse valorizzato turisticamente, anche come architettura. Visto che il trotto è chiuso, esatto. E che sa il galoppo, vabbè, perché sono due diversi ippodromi. Infatti, a Milano, sì. Così. Non so se è così dappertutto, a meno che è così, perché non è un mondo che non conosco neanch'io, per cui non mi addentro sicuramente. Leonardo Cappelletti, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Membro del comitato scientifico del Museo Casa di Dante, non possiamo ovviamente nella puntata di oggi non parlare di Dante, che conosciamo. Tutti dicono conosco Dante perché la Divina Commedia la devi studiare, certo. La senti, la è seguitissima quando Benigni la racconta, però tante cose credo che non si sappiano di Dante Alighieri, e che così vorremmo un po' conoscere un Dante che magari così vediamo meno, ecco, e meno, certo, sotto i riflettori. Beh, cosa dire, Dante è un pensatore, è un personaggio universale, è un po' il simbolo anche, diciamo, della nostra nazione. Io ora non voglio assolutamente tediare i nostri ascoltatori facendo una sorta di lezione in maniera manualistica, però vorrei tentare, se permettete, sì, una sorta di definizione su Dante, e vorrei trovare questa definizione partendo da quello che disse di Dante l'arcivescovo Antonino Ferozzi, un riformatore dei costumi domenicano nato tra, vissuto tra 3 e 400. Ecco, di Dante lui scrisse una volta, più specificatamente proprio della Divina Commedia, ecco, lui disse che il popolo, le persone non devono leggere la Divina Commedia, soprattutto l'Inferno e il Purgatorio, perché Dante scrive in modo troppo, come dire, in maniera che di agitare, lui agita troppo le menti delle persone. Ecco, io credo che in realtà Antonino Ferozzi abbia colto nel segno, perché Dante in effetti è un agitatore delle menti, Dante riesce sempre a suscitare la nostra fantasia, e credo che Dante fosse anche consapevole di questa sua capacità, credo che Dante fosse consapevole di essere un agitatore delle menti. Tenete conto che tra tutte le virtù che Dante poteva avere, sicuramente tra queste non c'era la modestia. Dante sapeva di essere un grande, E proprio a questo proposito vorrei raccontarvi un aneddoto che non tutti credo conoscono. Siamo nel 1301, nell'ottobre del 1301, e Dante viene incaricato, viene eletto come ambasciatore dal consiglio del comune, dal consiglio dei cento, per andare a fare un'importante missione a Roma da Bonifacio VIII. Ecco, Dante rimane perplesso di questo incarico, e quindi il consiglio dei cento, un po' risentito, gli dice: ma come mai rimani perplesso? E Dante risponde: sì, sono perplesso perché se io vado a Roma, chi è che rimane a Firenze? E altrimenti, se io rimango a Firenze, chi è che va a Roma? Certo. Quindi lui era consapevole, ripeto, di questa sua importanza, non soltanto da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista politico. Ecco, Dante lui è stato un politico, infatti, anche. Dante è stato un politico, ha cominciato la sua carriera, diciamo, verso la fine degli anni Ottanta del XIII secolo, è stata una carriera che poi ha determinato, purtroppo, anche il suo esilio da Firenze, da questa città che lui ha sempre amato. Si sa, insomma, basta leggere passi famosi della Divina Commedia, che ha amato ma che ha anche odiato. Ecco, c'è questo rapporto un po' di odio e amò di Dante con Firenze. Ecco, senti Leonardo, c'è qualcosa che ti infastidisce quando si parla di Dante o della Divina Commedia? C'è qualcosa che ti infastidisce, che dici vorrei che venisse raccontato in un altro modo, o no? Ma in realtà la Divina Commedia, per l'appunto, la si legge in tanti modi. Certamente talvolta la si legge con forse troppa superficialità, ma ripeto, questo un po' è anche il bello dell'opera di Dante, proprio questa poliedricità di letture che gli si possono dare. Per questo proprio parlavo di Dante come agitatore, perché in realtà Dante è un personaggio talmente grande che può leggerlo sia il bambino che sappia leggere, ma anche se non sa leggerlo, potrei leggerlo anche alla mia nipotina che ha 4 anni, e lo potrebbe leggere però anche la persona che ha 90, 100 anni e dà sempre delle sensazioni, suscita sempre per l'appunto questa fantasia di cui parlavo. Ecco, a parte la Divina Commedia, cosa che consiglieresti anche di leggere di Dante? Dante? Non ha scritto solo la Divina Commedia, appunto, per quello lo dico, perché si parla sempre solo di quello. Certo, Dante ha scritto tanto, e certamente, almeno personalmente, io mi occupo di filosofia medievale, sì. Un testo fondamentale è sicuramente il Convivio, che Dante scrive proprio con il precipuo intento di rendere partecipi di questa mensa angelica che è la filosofia anche il popolo. Quindi Dante è stato un pensatore che ha scritto un trattato di filosofia proprio per il volgo, per questo lo ha scritto in italiano, e questo è un testo, secondo me, che andrebbe anche maggiormente studiato nelle scuole. Ora, certamente nelle scuole si fa la Divina Commedia, che è, diciamo, il testo principe della nostra letteratura, ma si potrebbe tranquillamente studiare Dante anche partendo da queste altre sue opere, il Convivio prima di tutte. Ecco, l'ultima domanda che gli faccio, Leonardo, è una mia curiosità. Io vorrei capire, cioè ogni volta mi domando, leggendo Dante, quando Dante viene raccontato all'estero e quindi viene tradotto, no, in qualche modo, per forza, perché lo puoi leggere in italiano ma non puoi capire, no? Anche se conosci bene l'italiano è difficile cogliere milioni di sfumature. Com'è che si riesce a rendere Dante, com'è che riuscite forse anche voi a rendere Dante per gli stranieri? Ma il problema delle traduzioni è sempre adesso. Ma qui c'è di più, non so come spiegarmi, cioè dal mio punto di vista. Se non ricordo male, una delle ultime traduzioni della Divina Commedia mi sembra sia stata fatta addirittura in thailandese, se non ricordo male. Io non la conosco perché non conosco la lingua e certamente non so quanto si possa prendere, quanto possa rendere una traduzione in questo modo. Certamente però rimane il fatto che soltanto appunto pensando a come Dante viene insegnato nel mondo, questo ci fa capire come Dante sia veramente il simbolo della nostra nazione, il nostro fiore all'occhiello. Certamente non è semplice rendere questo universo di pensiero che Dante nelle altre nazioni, in altre lingue, però questo dimostra appunto quanto Dante sia importante e quanto sia senso universale, tu dici, ecco, universale, certo. Appunto. Grazie Leonardo Cappelletti, membro del Comitato Scientifico del Museo Casa di Dante. C'è anche il sito, se volete informazioni, museocasadidante.it. Buona domenica. Grazie, ciao Leonardo, buona domenica. Grazie. Claudio, io non so, è sempre una curiosità che ho avuto, cioè come fai a tradurre? Non riesco a capire, io sono lì, perché le sfumature non le puoi cogliere, le rime e tutto qua, perdi tutto. Beh no. Certo, sì, beh, mentre tu lo chiedevi prima, sì. Però immaginavo anche il contrario, noi leggiamo Shakespeare in italiano. Sicuramente. Ci sono secondo me diversi livelli, lo stesso anche per Leonardo se vogliamo, ecco. Diversi livelli di comprensione, di significati. Alcuni si possono rendere nella traduzione, l'ultimissimo livello che è quello proprio della qualità letteraria, delle rime, di quel quid in più si perde ovviamente, però direi che è giusto tradurre comunque i grandi della letteratura, della cultura, di qualunque paese esso siano, proprio perché possano circolare. Beh, quello sicuramente, anzi parliamo proprio di quello, della cultura che deve circolare, del valore del museo in Italia oggi, perché su questo credo Giorgione, non dico è polemico, però ha molto da dire, ecco, perché è vero, è proprio così. Non so qual è il vostro rapporto, parlo con gli ascoltatori, verso i musei, ci andate, come li considerate, se hanno fatto parte o fanno parte della vostra vita. Il riposo del guerriero. Caro Giorgione, essendo curatore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, ha molto da dire anche sui musei che soffrono in Italia. Eh sì, siamo in un momento veramente difficile. Ovviamente, oltre alle ovvietà, a quello che si sente in giro, volevo fare una riflessione di questo genere. Sì. Io amo viaggiare appena posso, mi muovo, mi sposto, mi piacciono i musei di qualsiasi tipo. Ovviamente uno dei confronti che più in quest'ultimo periodo ho fatto, visitando paesi anglosassoni eccetera, il diverso approccio che noi italiani abbiamo nei confronti dell'arte, dei musei, della cultura, di tutto quello in cui in genere noi ci vantiamo, ci gloriamo, anche se io sono un assoluto sostenitore del fatto che non deteniamo il X% della cultura del mondo, non è vero assolutamente, ogni paese del mondo ha molto da dare. È vero che in Italia in certi momenti come il Rinascimento ci sono state delle concentrazioni di eccellenza, ma di qui a dire che noi abbiamo tutto, gli altri paesi niente, come spesso sento dire, è una orribile cosa. Io non sono campanilista e amo quello che ho, Milano eccetera, ma amo scoprire dappertutto le bellezze. Insomma, quello che senz'altro noi italiani, la cultura, la politica, qui sbagliamo, è considerare spesso appunto i musei, la cultura, la musica, il teatro, proprio come un'eccellenza di cui vantarci, un po' come un soprammobile, che quindi nei momenti di crisi come questa sia sacrificabile. E invece tanto ce l'abbiamo, tanto è lì. È lì e la rispolveriamo quando dobbiamo farci belli appunto con magari gli altri paesi, ma invece dovremmo considerarla come parte integrante della formazione di un individuo, della formazione civica, della formazione intellettuale, come, ecco, la scuola. Esatto, tu dici questo e personalmente concordo, ritengo per esempio che spesso si va di più ai musei all'estero piuttosto che quelli in Italia, no? Cioè si conoscono di più, quando uno va in una città, va a vedere i musei e poi dice: il museo della tua città, non sono mai stato, perché tanto è nella mia città, per cui lo vedrò, posso vederlo quando certo. Voglio, cioè mai. Eppure il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano è molto frequentato. Assolutamente, sì. Noi cerchiamo proprio come tanti altri musei milanesi, di cui magari la gente dovrebbe scoprire di più, cerchiamo di far vivere il museo ogni giorno. E il museo non è fatto solo da collezioni, che ovviamente sono al centro, perché senza collezioni non potrebbe vivere, ma è fatto dalle persone che lo vivono, dalle persone che ci lavorano, quindi sia i visitatori che i curatori come me, tutti concorrono a farlo, a renderlo vivo, sempre diverso ogni giorno. E quindi cerchiamo programmare una serie di eventi. Ad esempio questo weekend abbiamo un evento molto grande sulla vela con la Lega Navale Italiana, ma cerchiamo sempre di volta in volta di invitare il nostro pubblico a tornare a trovare modi diversi, pur nelle difficoltà. Ad esempio gli eventi che dobbiamo realizzare in queste settimane, in questi mesi, diciamo in questi anni sempre di più, hanno ovviamente budget limitati, però ecco, danno motivi al pubblico di ritornare. Noi abbiamo uno zoccolo duro di visitatori che tornano più volte, sì, esatto. Bene, questo dovrebbe essere, appunto, tutti i musei dovrebbero farlo, però capiamo che poi la questione economica è importante, non ci sono i soldi per realizzare. Insomma, poi ci sono anche piccoli musei che sono altrettanto importanti, ma che però fanno molta fatica, immagino di sì. Camillo Albanese, buona domenica. No, sono io Camillo Albanese, quello che mi ha preceduto non lo so chi è. Sì, io la stavo salutando, Camillo. Ah, benissimo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho scelto Camillo Albanese perché ha scritto un libro che mi ha incuriosito, intitolato I personaggi che hanno fatto grande Napoli. Perché appunto Napoli è grande, conosciuta tutto il mondo, con personaggi che tutto il mondo conosce e che hanno fatto grande l'Italia. E quindi così, Camillo, avrei voluto che lei raccontasse qualcuno dei personaggi che a lei stanno particolarmente a cuore. Tutti le staranno a cuore, però dobbiamo sceglierne uno o due in questo momento, per ragioni di tempo. Veramente io volevo scrivere un altro libro. E che cosa? I personaggi che hanno rovinato Napoli. Perché rovinata? Ce ne stanno parecchi che l'hanno rovinata. Vabbè, però non sono quelli incanti nel libro. Ho preferito scrivere di quelli che hanno fatto grande Napoli. Ecco, mi sono rammaricato di non aver riportato molti altri personaggi come Carlo Cenano, Luigi Vanvitelli, Giuseppe San Martino, Giambattista Marino e via di seguito. Ecco Camillo, perché li ho dovuti? Per ragioni di spazio? Perché altrimenti avrei dovuto fare un'enciclopedia. Sì, certo. Un'enciclopedia. E quindi ho scelto quelli che conoscevo meglio, naturalmente. Senta, a parte Totò, che me lo lasci dire, un po' più è il più scontato, eccolo, diciamo, ma non tolgo niente a Totò, però dico è il più scontato, no? Quando si pensa a Napoli dal punto di vista internazionale. E chi è che vorrebbe citare lei? Come sarebbe? Chi è che vorrei citare? Cioè, qual è il personaggio del quale vorrebbe raccontare? Totò a parte. Ma pensiamo per esempio al grande Benedetto Croce, il filosofo che ha fatto grande Napoli e che era il filosofo di Napoli. Ecco, tra i personaggi che invece lei non ha raccontato nel libro, aveva citato Vanvitelli, faccio un esempio, sì. Chi è che ritiene così più interessante e difficile, no? Perché una scelta è sempre difficile in questo senso, però ci racconti di uno di questi. Ma per esempio prendiamo Giuseppe San Martino, lo scultore che ha fatto il Cristo velato di Napoli, che è un'opera insigne, un'opera eccezionale, un'opera che i turisti, pensate, che volevano acquistarla al prezzo d'oro e non gli è stata data, il suo peso a prezzo dell'equivalente in oro e non gli è stata data. Parlo poi di il poeta Giambattista Marino. Il grande santo avvocato Sant'Alfonso Maria de Liguori, l'altro pulista Leopoldo Rodinò, quindi ce ne stanno parecchi. Ecco, senta, c'è qualcosa che dei personaggi di cui si parla, cioè, di Napoli, io faccio sempre questa domanda, no? C'è qualcosa che dà fastidio, che le dà fastidio, cioè che non so, Totò viene sempre dipinto in quel modo lì, ed è una cosa che, faccio un esempio, non lo so, mi aiuti lei, se c'è. Cioè, mi faccia capire. Se c'è qualcosa, qualche aggettivo col quale vengono dipinti i personaggi che hanno fatto grande Napoli, che le dà fastidio. Ma io direi che vengono sotto... sono poco conosciuti. Poco conosciuti, poco noti. Non se ne parla abbastanza, secondo me. Dal grande pubblico. Ecco, io avrei voluto farlo, onestamente, cioè l'ho invitato apposta per poterlo fare. Però questo era per esempio, pensi il grande San Tommaso d'Aquino, il più grande filosofo medievale, il grande esponente della scolastica, che è un personaggio eccezionale, non se ne parla. Di Basilio Puoti, il grande purista, chi è che ha avuto un purista? Quale città ha avuto un purista come Basilio Puoti, che fa ancora scuola? No, io gli avevo chiesto appunto di scegliere qualche personaggio per raccontarlo, l'abbiamo soltanto citato. Io a questo punto allora vi invito a leggere il libro I personaggi che hanno fatto grande Napoli. Grazie Camillo Albanese, buona domenica. Prego, se lei vuole io le posso accennare qualche... Adesso però abbiamo perso il tempo per poterlo fare, la ringrazio, buona domenica, grazie. Claudio Giorgione, a volte non si è compresi. Leonardo è sempre stato compreso durante la sua epoca o mica tanto? È stato compreso in parte, perché dobbiamo immaginarcelo come una persona che conduceva una doppia vita, non in maniera... Sì. Non perché avesse dei segreti... Non stiamo facendo del pettegolezzo. No. Ossia, una serie di interessi, di commissioni, di lavori che facevano parte della sua vita pubblica. Ad esempio, ingegnere, organizzatore di feste qui a Milano, per cui era conosciuto, pittore, artista. Sì. E poi una serie di studi che lui compiva per il suo interesse, dagli studi sul volo fino agli studi anatomici, e ovviamente doveva ben guadagnare nel primo lavoro per poi avere tempo e risorse per portare avanti i suoi interessi personali. Questo aspetto dell'organizzatore di feste mi incuriosisce molto. Sì, lui era non l'unico, perché all'epoca tanti ingegneri e artisti, Brunelleschi a Firenze fu un allestitore di feste, soprattutto di quelli che noi oggi potremmo chiamare effetti speciali, di eventi soprattutto di meccanismi teatrali che realizzavano effetti speciali. A Milano Leonardo per molte feste, soprattutto matrimoni ducali, organizzò vere e proprie rappresentazioni che andavano dal disegno dei costumi fino all'organizzazione di scenografie particolari. La più celebre, la festa del Paradiso, questa festa realizzata nel 1490 per il matrimonio di Isabella d'Aragona, principessa napoletana, tanto per rimanere legata a questa città, che sposò il nipote di Ludovico il Moro, Gian Galeazzo Sforza. E per questa festa nel Castello Sforzesco Leonardo realizzò una scenografia con il primo planetario a stelle fisse che si ricordi, con il movimento dei pianeti dato probabilmente da strutture meccaniche. Lodato all'epoca, abbiamo un libretto della festa con di Bernardo Bellincioni, che era il poeta di corte. Di questa festa però noi non abbiamo disegni. Stavo scrivendo, i disegni dove sono? No, è un paradosso. Contate che delle 7000 pagine che sopravvivono di Leonardo, altrettante ne sono andate perdute probabilmente. Quindi noi spesso abbiamo disegni di cose che lui poi però non realizzò, invece di quello che è stato realizzato. No, esattamente. Che rabbia però, aver voluto essere lì in quel momento e vedere questo cielo. Il riposo del guerriero. Le 11 e 6 minuti, ancora buona domenica, da Stefano Gallarini continua il riposo del guerriero. Stiamo parlando dei personaggi che hanno fatto grande l'Italia. La domanda sorge spontanea, scrive qualcuno che non si firma. Al giorno d'oggi nascono ancora grandi personaggi italiani da diventare illustri nel mondo o sono tutti nel passato? Ma io penso che possano nascere tranquillamente, no? Credo, sì. Assolutamente. I tempi però sono diversi, sì. Cioè quando non era stato inventato niente, tra virgolette, e quindi tutto deve nascere, c'è il rinascimento, infatti a un certo punto, un ritorno, una grandezza, anche appunto di personaggi che si occupano di tutto. Oggi sarebbe impensabile, no, Leonardo, perché tutto viene diviso. Infatti una domanda sono che le spesso arti divise, Sì, mi viene fatta, come reagirebbe Leonardo se vivesse oggi? Beh, fondamentalmente sarebbe impossibile che possa esistere. Senz'altro sarebbe contento di vedere molte sue intuizioni confermate, però dall'altra si troverebbe un po' a disagio in questa differenziazione del sapere che una volta non c'era. Perché invece di parlare sempre, scrive Gianni, e solo dei grandi uomini del passato, anche di donne abbiamo parlato e continueremo a farlo, cioè tenevo a precisarlo, e anche per, anzi tra poco avremo un ospite che si occupa di questo, e non ci occupiamo dei nostri grandi giovani ricercatori, anche molto famosi, fuggiti all'estero, perché abbiamo una trasmissione condotta da Sergio Navas, editora Giovani Talenti, ogni sabato alle 13.30, che si occupa proprio di questo, e quindi ho evitato di farlo io. Ecco, questa è la risposta. Gianni, Stefania, buonura, buona domenica. Grazie, buona domenica a voi. Le grandi donne che hanno cambiato il mondo, e ovviamente nel libro ci sono molte donne che hanno cambiato il mondo, ovviamente sono tutte donne, voglio dire alcune italiane, ecco cosa volevo dire, e non sono tutte italiane. No, abbiamo scelto alcune donne italiane invece, visto che oggi di questo si parla, io ti chiedo di cominciare dalla più giovane, che è Sara Simeoni. Sì, grande personaggio. E, allora, diciamo così che il libro, come lei ha visto, immagino, si occupa dell'universo mondo, possiamo dire così. Ho preso praticamente un ambito infinito di donne dall'antichità fino ad oggi, e Sara Simeoni, ho cercato insomma di prenderle ognuno in un ambito diverso, quindi Sara Simeoni va a rappresentare diciamo il mondo sportivo, sì. Chiaramente tutti la conoscono, non ha bisogno di grandi presentazioni, è stata una grande campionessa del salto in alto femminile. E il motivo per cui ho scelto Sara Simeoni, avrei potuto scegliere tantissime altre donne nel mondo, per l'appunto, perché stiamo parlando di donne che hanno cambiato il mondo, perché lei, perché sta nei miei ricordi di infanzia prima di tutto, quindi c'è un motivo affettivo personale, sì personale, diciamo che forse io sono l'ultima generazione che l'ha vista con i propri occhi, anche se gli occhi di una bambina in qualche modo, perché io avevo, quando superò per così dire il tetto del mondo, cioè superò di un centimetro i due metri di altezza, che fu a Brescia nel 1978, quando non la vide nessuno praticamente, perché si disputava praticamente un'amichevole tra la nazionale polacca e quella italiana, in uno stadio di Brescia praticamente, non ci andò nella Rai, non ci andò nessuna TV nazionale, tantomeno le grandi testate giornalistiche sportive di allora, perché erano tutte dedite ad altre cose, insomma, in ogni caso diciamo così, le esperienze femminili non erano molto apprezzate dal mondo maschile sportivo, in particolare poi questo si trattava di una disputa di atletica che non era molto seguita e in più amichevole e femminile, quindi praticamente lei superò il tetto del mondo senza essere vista da nessuno, e diciamo così che poi le immagini che io ricordo per esempio sono quelle delle Olimpiadi dell'80 a Mosca, sì. Che io avevo più o meno 7 anni all'incirca all'epoca, quindi già c'ho delle immagini. Certo, tu dici comunque un personaggio che nessuno ha seguito fino a un certo punto, no? E quindi sì, nel momento esatto in cui chiaramente per forza di cose, certo. Ha superato i due metri che erano praticamente detenuti dalla tedescona, dalla Ackermann, che era molto più alta di lei, se non che mi sbaglio. Era molto più alta di lei, sì, aveva anche una muscolatura molto più possente. E invece lei sì, era molto più esile, Sara Simeoni. Ecco, allora passiamo, scusami perché non abbiamo tantissimo tempo, ma volevo fare una carrellata veloce. Torniamo indietro di tantissimo e andiamo ad Artemisia Gentileschi. Sì, grande Artemisia, in questo periodo poi che si sta parlando sempre di... Sì, c'è stata anche una mostra recentemente, sì. Esatto, casca diciamo a fagiolo. E diciamo così che tutti... Allora, Artemisia Gentileschi è una delle più grandi pittrici italiane. Il suo capolavoro assoluto è la Giuditta che decapita Oloferne, che a mio giudizio, a giudizio di molti critici, supera in bellezza anche quello dello stesso Caravaggio. Tutti la ricordano per questo stupro fondamentalmente, lo stupro che subì da Agostino Tassi, che esatto. Era suo maestro e amico di Orazio Gentileschi, con lui stavano dipingendo praticamente la... Amicone, sì. Visto quello che ha combinato. Un vero amico, sì, ma infatti fu, cioè, alla fine Artemisia si ritrovò tra i due e sembrava quasi, la si può definire, alcuni la definiscono, una sorta di lite caravaggesca, cioè quasi una disputa, e a pagare le conseguenze fu proprio Artemisia, perché appunto tutti la ricordano come se lei avesse avuto il coraggio di denunciare Agostino, non è così, perché a denunciare Agostino fu Orazio Gentileschi, Artemisia ne avrebbe fatto assolutamente a meno, anche perché durante il processo subì persino la tortura, una tortura tremenda ai polpastrelli, che rischiavano anche di non farle continuare più la sua attività, quella che le amava, cioè dipingere. Invece la sua grandezza, la grandezza di Artemisia, sta nell'affermazione, non solo nella sua arte, che è oggettivamente meravigliosa, ma nell'affermazione della sua arte, perché fu la prima donna a essere ammessa all'Accademia di Belle Arti. Ecco, infatti dobbiamo sempre riferirci al tempo storico. Ecco, qui Claudio Giorgione sta annuendo mentre ti sta ascoltando. Probabilmente lui è un grande appassionato d'arte, non solo, anche studioso, ovviamente, e quindi stava annuendo dicendo sì, è stata la prima e meno male. Senti, e non solo, ma si rese autosufficiente, cioè indipendente economicamente con la sua arte. Chiaramente non diventò ricca, però riuscì a mantenersi, e questa è la sua grande rivoluzione, oltre chiaramente alla bellezza della sua opera, sicuramente. Ti do un minuto e mezzo invece per raccontare di un personaggio italiano che però si sposta dall'Italia, che è Caterina de' Medici. Sì, che diventa una regina francese praticamente. Sì. Sì, lei è un personaggio fondamentale, io l'ho inserita non tanto perché ha stravolto in qualche modo il mondo, no, però è molto rappresentativa di un'epoca che poi furono le guerre di religione che infiammarono l'intera Europa, e diciamo che molte corone vacillarono, tra cui quella francese, e lei in un certo senso, diciamo così, che il suo personaggio è molto ambiguo, perché c'è chi la considera una sorta di demonio e chi invece la considera come quella che salvò la corona francese, quindi diciamo che lì l'interpretazione è vasta e ampia, tanto che io nel precedente libro sulle donne più malvagie della storia l'ho inserita, le donne più malvagie della storia, non perché io la considerassi chiaramente una donna malvagia, ma perché è stata molto criticata, esatto. E lei praticamente, come la maggior parte delle donne che andavano all'epoca al potere, era imparentata con il potere, cioè ci arrivò come reggente di Francesco II, praticamente suo figlio. Molto interessante questa donna in nero, in qualche modo, diciamo così, che attraversa questo periodo come una straniera, un periodo un po' decadente, se si vuole, perché poi alla fine l'ultimo dei suoi figli chiude la dinastia dei Valois, e quindi diciamo così rappresenta assolutamente tutta un'epoca di donne che furono tacciate come le donne che portarono in qualche modo la guerra in Europa, le cattive, perché c'era Maria prima Tudor, la sanguinaria, in Inghilterra, c'era Caterina in Francia, un po' accusata della notte di San Bartolomeo, in cui vennero trucidati una serie di ugonotti. Diciamo che lei c'era, però in qualche modo era, come la maggior parte delle donne dell'epoca, una reggente. Quello che interessa è che riuscì comunque a tenersi stretta la corona e a portare avanti il potere per addirittura durante il governo dei suoi tre figli, cioè lei comunque fu primo ministro oltre che reggente di tutti e tre i figli che andarono al potere in Francia. Ecco, questa Caterina de' Medici, voglio ricordare il libro Le grandi donne che hanno cambiato il mondo, appunto sono donne prese da tutto il mondo, non soltanto sì, italiane, che se ne abbiamo citato mondo, queste sì, tre. Sì, grazie tutte le epoche. Grazie Stefania Bonura, grazie. Grazie. E tra l'altro proprio Caterina de' Medici ci dà l'occasione di parlare, dopo gli aggiornamenti sul traffico, di Leonardo e la Francia. Eh sì. Ahimè, da un certo punto di vista dico ahimè. Ma no, bene. Perché? No. Il riposo del guerriero. Intanto un'ascoltatrice dice Machiavelli, non ne parliamo oggi di Machiavelli, in effetti, vabbè, non è che si potesse raccontare di tutti e ho scelto alcuni personaggi. No, però vorrei dirti, a proposito di Machiavelli, senz'altro due cose lo uniscono con Leonardo da Vinci. Primo, un grande pragmatismo e senso della realtà, nella realpolitik. Leonardo, come Machiavelli, era un uomo molto cinico per certi punti di vista, e ricollegandomi anche al problema della Francia, al tema della Francia, il fatto che lui, ad esempio, considerasse la cosa più importante il poter lavorare, l'avere quell'autonomia, quell'indipendenza, per cui poté tranquillamente, dopo aver lavorato per 20 anni con gli Sforza, dopo qualche anno ritornare tranquillamente a Milano e lavorare essere amico di coloro che gli Sforza avevano cacciato, cioè i francesi. Questo per dire che il ricercatore, pur di lavorare, può darsi a tutti. E non per niente lavorò per lo stesso committente di Machiavelli, Cesare Borgia, che è il figlio di Papa Alessandro VI. Non so se avete visto la fiction che ha girato poco tempo fa, che aveva una reputazione pessima, però gli dava ottime occasioni di lavoro. Ecco, quindi Leonardo insomma cerca i soldi alla fine della fiera, perché cerca i committenti, ecco. Cerca committenti, occasioni, esatto, e il suo rapporto con la Francia in realtà inizia proprio in Italia, perché Milano è governata dai francesi, tra l'altro un periodo interessantissimo, sì, dal punto di vista culturale, anche se di grande incertezza, perché l'Italia diventa un po' il terreno di scontro di tutte le potenze europee, tutte volevano venire, e Milano, che era molto ricca, era tra più, lo stato più appetitoso, insomma, può lavorare col governatore Charles d'Amboise, di cui progetta una villa bellissima qui a Milano, conosce il re Luigi XII di Francia. Scusa, progetta la villa, poi è stata realizzata? No, ecco, perché al solito no. Ormai abbiamo capito. Disegna che, ecco, una villa famosissima alimentata dal torrente Nirone, dove addirittura aveva immaginato un organo idraulico che avrebbe simulato il suono degli uccelli, insomma una cosa incredibile. E poi dopo, più tardi, sarà chiamato dal successore di Luigi XII in Francia, quindi non direi un cervello in fuga in questo caso, perché ormai aveva 64 anni, una specie di monumento vivente, in realtà era un po' come dire la ciliegina sulla torta che riconosceva internazionalmente la sua carriera. Alessandra Tedesco. Buongiorno a tutti. Ecco, visto che gli ascoltatori dicono ma è sempre persone del passato, che va benissimo, ma contemporanei, abbiamo pescato degli scrittori, Alessandra. Ma sì, pensiamo degli scrittori viventi, su, via, no, per carità, i grandi del passato hanno tutto il nostro rispetto, però bisogna pensare che ci sono degli scrittori contemporanei che sono famosi nel mondo, scrittori italiani, diciamo che i due più grandi sono Umberto Eco e Andrea Camilleri, sono quelli che all'estero sono più conosciuti per quanto riguarda la narrativa italiana. Ovviamente Umberto Eco con il suo primo romanzo Il nome della rosa, che risale addirittura al 1980, ma continua ad essere tradotto ancora oggi in altre lingue. Per esempio all'ultimo salone del libro di Torino abbiamo parlato della vendita dei diritti italiani in Cina, e Il nome della rosa continua a essere uno dei libri più gettonati. Tra l'altro proprio Il nome della rosa ha venduto fra diciamo Italia e mondo circa 30 milioni di copie, è stato tradotto in oltre 40 lingue, quindi insomma potete immaginare che la fama di Umberto Eco nel mondo è sicuramente di un certo peso. E poi Andrea Camilleri ovviamente soprattutto con i libri su Montalbano. Il primo Montalbano risale al 94 e complessivamente diciamo che i libri di Camilleri in Italia hanno venduto circa 16 milioni di copie, nel mondo 30 milioni di copie, è tradotto in tantissime lingue. È curioso per esempio vedere come Camilleri, ovviamente sappiamo che usa un po' anche il gergo siciliano nei suoi romanzi, sì, alla Montalbano, e per esempio in Francia è tradotto da un altro scrittore che si chiama Quadrupani e che diciamo ricorre al marsigliese per dare un'idea. L'idea di quello che sarebbe in italiano con la lingua siciliana. Certo. Camilleri ha appena pubblicato l'ultimo romanzo Montalbano, uscito la settimana scorsa, Un covo di vipere, e ci scommetto che la prossima settimana sarà primo in classifica, addirittura supererà Dan Brown. Vedremo la prossima settimana. A proposito, mi hai dato due assist. Grazie Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri. Buona domenica, ciao. A tutti, ciao. Ciao. Allora, uno, e vabbè, cioè, Dan Brown neanche te lo chiedo. Possiamo parlarne tranquillamente. Sai che al Cenacolo, sì, hanno chiesto proprio di non fare domande su questa cosa, perché c'è stato un periodo in cui tutti gli stranieri, certo, domandavano. Qui Dan Brown è stato un grande, ovviamente, sì, ovviamente dal punto di vista letterario uno scrittore mediocre, sì, che confeziona romanzi, anche l'ultimo romanzo lo è, sì, ambientato a Firenze, fra l'altro. L'ho letto, comunque capitoli di 2 pagine e mezzo che invoglierebbero anche il peggiore dei lettori a continuare. Ha avuto però un'ottima idea, cioè quella di associare i suoi interessi sulla crittografia, sui complotti in generale, che vendono sempre molto, con la figura di Leonardo, il cui mito, che soprattutto alimentato dall'Ottocento, ha trovato questo anello di congiunzione nel Cenacolo. Diciamo che però tutto il romanzo, lui si è potuto permettere di farlo, però l'ha spacciato come verosimile, gioca su un fraintendimento, cioè che Leonardo abbia qualcosa da nascondere, codex come parola cifrata, invece sì, codex non, per Leonardo è solo il libro, il volume, ah, non c'è nessun segreto da scoprire in Leonardo. Il codice da Vinci dice semplicemente il diario di Da Vinci, per esatto, per dire. non è una scrittura cifrata. Il Leonardo non ha niente da nascondere, semmai l'unica meraviglia è ammirati da tutto quello che ha fatto. Ecco, per quanto riguarda invece Montalbano, insomma, sì, reso popolare dalla televisione, ovviamente abbiamo uno sceneggiato di un po' di anni fa ormai che racconta la vita di Leonardo. Sì. Quanto è aderente alla realtà? Uno sceneggiato importantissimo di Renato Castellani, della Rai, 1970, quindi sono passati 43 anni, sì, in 5 puntate, con dei tempi e dei ritmi oggi ovviamente... Era 1970. Esatto, però ci si poteva permettere di fare cose che oggi un produttore non consentirebbe più, di riflettere, di presentare un personaggio in una maniera dettagliatissima. Philippe Leroy, ma un giro di attore incredibile, Ottavia Piccolo che faceva la povera Beatrice d'Este. Ancora oggi è il prodotto più insuperabile nel scrivere, restituire Leonardo, perché non aveva bisogno di puntare a quegli aspetti sensazionalistici che invece oggi purtroppo ancora vediamo nella maggior parte dei documentari. Invece tu dici quello, quindi guardate quello piuttosto. Esatto, perché non ha bisogno di giustificare una genialità attribuendo a Leonardo invenzioni che spesso non lo sono. Lui rimane un grande anche se lo restituiamo ai suoi tempi. Non siamo più negli anni 30, in età fascista. Leonardo era proprio il genio che giustificava l'autarchia, no? Perché noi abbiamo fatto tutto, guardate Leonardo, abbiamo inventato ogni cosa. No, non c'è bisogno di reclamare ogni primato, ma di riconoscere la grandezza anche nella maniera più corretta. Abbiamo parlato di cinema. Mario Sesti, buona domenica. Buona domenica a voi. È direttore artistico della sezione Extra, l'altro cinema del Festival del Film di Roma, per parlare così velocemente, non abbiamo molto tempo purtroppo ormai, però insomma tre grandi che hanno fatto grande anche l'Italia del cinema: Anna Magnani, Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Beh, insomma, non credo che ci sia qualcuno che non li conosca, anche se non ha mai visto nessuno dei loro film. Male, se non li ha mai visti, però. Beh, un po' sì, però la grandezza si misura anche dalla notorietà, indipendentemente poi da una conoscenza oggettiva. Sono personaggi che appartengono alla nostra cultura e che l'hanno anche in qualche maniera condizionata, modificata, segnata, anche se nessuno poi ha mai visto direttamente la loro capacità e la loro abilità, la loro competenza e il loro fascino su un grande schermo. Come dire, in pochissime parole si tratta di tre volti, corpi feticcio di quella che è stata forse una delle stagioni culturali più illustre della nostra cultura, cioè il nostro cinema del dopoguerra, quindi diciamo 45-75, anche se come tutte gli schemi avete una piccola formuletta di comodo. Certo. Anche tre aspetti particolari. Sì, sì. No, vai avanti, perdonami. No, io pensavo adesso, ragionando appunto, voi parlavate di Leonardo, quindi insomma, anche in questa specie di triade, no, c'è un'emblematicità di aspetti, perché per certi versi la Magnani è stata anche l'anima più profonda, l'Italia ferita, quindi anche quel passato, diciamo così, contadino di nazione preindustriale in cui c'era una comunità e quindi un volto anche capace di dare identità a un popolo, a una collettività. Mastroianni è stato allo stesso tempo un famoso Latin lover, ma aveva anche caratteristiche di... Mario, non ti sentiamo più purtroppo. Mario, ti stavo perdendo completamente, ti abbiamo perso completamente. Abbiamo capito solo Marcello Mastroianni, Latin lover, ma giustamente. Aveva in sé anche, per questo pensavo anche a Leonardo, cioè delle caratteristiche di tenerezza, di dolcezza, di serenità inspiegabile, di ironia, di autoironia, mai prendersi troppo sul serio. Sì, e beh, questo è questo che piace molto di lui, è vero, lo si percepisce anche in molti dei ruoli che ha interpretato. Sofia Loren. Sofia Loren invece è per certi versi la rivincita. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di fare con lei due bellissimi incontri, uno al Festival del Cinema di Roma, quando abbiamo dato il Premio Achille, e poi un'altra anno nel Teatro Antico di Taormina, perché io dirigo attualmente il Festival, in un momento peraltro particolare, perché tra il primo e il secondo tempo della partita Italia-Germania, quindi con uno stadio molto... Mario, Mario, mi devi perdonare, ma non ti sentiamo e non posso andare avanti perché non si capisce niente di quello che dici e mi dispiace molto, però purtroppo non posso fare niente e devo dare la pubblicità. Mario Sesti, direttore artistico della sezione Extra, l'altro cinema del Festival del Film di Roma, mi dispiace, cerchiamo di contattarlo magari più tardi. Il riposo del guerriero. Parliamo di personaggi che hanno fatto grande l'Italia e siccome quest'anno ricorre a un anniversario importante, non potevo non parlare di lui. No, perché c'è poi anche la diatriba Wagner e Verdi, Raffaele Mellace, buona domenica. Buona domenica. 200 anni per tutti e due, chi scegliamo? Non sto scherzando, è una diatriba farlocca, però c'è stata, no? Certo. E noi parliamo di Verdi invece oggi, ovviamente, visto che parliamo di personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Sì. Io ho cominciato con la messa di Requiem perché, vabbè, volevo cominciare così, credo che sia straordinariamente bellissima. Ha fatto bene perché la messa è stato un momento decisivo anche nella proposta di Verdi al mondo musicale europeo e mondiale. Cioè è stata una pagina in cui anche chi aveva delle riserve, per esempio nei paesi centrali del romanticismo come la Germania, aveva delle riserve verso il melodramma italiano, davanti alla messa di Verdi si è trovato spiazzato e ha decretato proprio in Verdi una delle voci più autentiche del romanticismo europeo. Lo siamo anche noi ogni volta che l'ascoltiamo. È vero che inizialmente aveva scritto una parte della messa di Requiem per Rossini, poi invece decise di scriverla interamente perché era più umani, quella per Rossini, per Manzoni? Esattamente, sì. Cioè la messa da Requiem è veramente un'opera, diciamo, nazionale che Verdi concepisce prima per un altro grande italiano, cioè Rossini, cercando di coinvolgere anche altri autori. Poi quando il progetto fallisce e muore pochi anni dopo Alessandro Manzoni, che Verdi letteralmente venerava, quindi c'è proprio questa triade, diciamo così, di grandi italiani, di esponenti dell'Italia risorgimentale, allora a quel punto esprime, come dire, come lui stesso dirà al sindaco di Milano di allora, il suo bisogno del cuore di scrivere quest'opera per appunto questo grande genio. Oggi con le linee siamo veramente disturbati, ecco, no, scusa Raffaele, perché anche prima avevamo avuto problemi con un altro ospite, ti sentiamo male, cerchiamo di recuperare. Okay, sì, cerco di entrare più forte. Sì. Ecco, visto che è il 200enario e molti non conoscono Verdi, se non insomma l'Aida, ovviamente, però sai, le solite, io dico sempre le solite cose, ma non tolgo niente alla grandezza dell'opera, ovviamente, no, però ci sono cose che si conoscono di più perché si sentono di più. E cos'è che tu, da dove consiglierei di iniziare per conoscere Verdi? Ma se proprio sei a zero, direi che La Traviata può essere forse il lavoro più impressionante, più emozionante, perché Verdi, a parte il dono straordinario che ha nella Traviata, un dono melodico, musicale, che lascia veramente annichiliti, Verdi tratta dei temi anche molto forti, molto moderni, sia per l'epoca ma anche per oggi, e lo fa, come dire, provocando nell'ascoltatore, nello spettatore, un vero shock estetico, cioè è tale la bellezza della musica scritta sia per i buoni che per i cattivi, diciamo così, che è un atto che soggioga l'ascoltatore, quindi si esce dal teatro o si esce dall'ascolto, ormai che facciamo tutti in CD o tramite internet, eccetera, si finisce di ascoltare con un senso veramente di, non solo di ammirazione, ma proprio di sbigottimento, è un'esperienza esistenziale molto forte. Ecco, anche se, fammelo dire, lo so che è assolutamente banale, però l'opera va vista, no? Non c'è niente da fare, proprio, c'è una differenza abissale fra l'ascolto e la vista, c'è la partecipazione teatrale, nasce per quello e l'emozione è completamente diversa, quindi se avete la fortuna di poterla sentire è meglio sentirla dal vivo, ovviamente. Completamente, no? D'accordo, poi soprattutto per Verdi devo dire che concepiva le sue opere proprio come dei fatti scenici, degli eventi in cui tutto venisse coinvolto, anche la scenografia, sia proprio anche la recitazione dei cantanti, per cui per lui era veramente, non so cosa penserebbe del fatto che noi invece fruiamo la musica soprattutto in un modo stranissimo, non avendo gli esecutori di fronte. Credo che si arrabbierebbe molto, francamente. Grazie Raffaele Mellace, e io grazie, voglio ricordare, se qualcuno volesse conoscere meglio il genio di Verdi, il libro scritto da Raffaele Mellace con moltissima passione, Ritratto di Giuseppe Verdi, edito da Carocci. Grazie ancora, buona domenica. Domenica. Claudio Giorgione, Leonardo suonava anche, c'era, non faceva, cioè faceva, cucinava, cosa che faceva tutto, immagino, anche, sì, immagino di sì. Anche, nonostante l'aneddoto che avesse aperto la trattoria a Firenze con Brunelleschi è finto, però si interessava. Non la sapevo neanche, hanno detto questo. Sì, assolutamente. Sì, Leonardo suonava e cantava anche, e ci sono nei suoi codici tantissimi disegni di strumenti rivoluzionari, arriva a Milano nel 1482, una delle varie ragioni è anche proprio per, in qualità di musico, tanto che con lui viene Atalante Migliorotti, musicista fiorentino, che poi lui ritrasse nel famoso Ritratto di Musico che abbiamo all'Ambrosiana, quindi un grande intrattenitore. Ma all'epoca molti facevano musica fino a 100-150 anni fa, oggi purtroppo la musica non è più, soprattutto in Italia, nonostante abbiamo questo grande patrimonio, non è più, anche, ahimè, anche questa materia di insegnamento, è un peccato, dovrebbe esserlo tanto quanto la letteratura. Io sai che concordo in pieno, ovviamente, Claudio, con quello che dici. Intanto ti ringrazio molto per essere stato qui. Grazie a te. Giorgione è curatore del Dipartimento, il Museo Arte e Scienza del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Più lungo no? Vabbè. Ci piace complicato. Va bene così. Allora, ciao. Purtroppo anche oggi saltano le due rubriche che sono quella dei videogiochi, e mi scuso con gli ospiti e la nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa, consenti chi parla, ma avevamo molte cose interessanti da raccontarvi e quindi purtroppo sono saltate. Però vi ricordo il sito tuttopoli.com, dove andare a leggere l'intervento che Francesca Dragotto avrebbe fatto, ovviamente. E scusate perché sto in regia, sta succedendo una cosa, per cui, e poi anche su ludologo.com invece l'intervento del nostro ludologo per parlare di giochi, scusatemi, tra l'altro c'è un gioco che racconta proprio Leonardo da Vinci, per cui siamo assolutamente in tema. E a questo punto è il momento del nostro gastronauta, le suggestioni del gastronauta. Il nostro gastronauta è in viaggio in questo momento. Ciao Davide Paolini. Pronto? Davide? Pronto? Eccoci qua, ci siamo. Ciao Davide, sei in viaggio, lo so. Pronto? Non sentiamo Davide. E allora a questo punto io direi di sentire il nostro ludologo. Di sentire il nostro ludologo con il momento dedicato al mondo dei videogiochi. Vediamo se riusciamo a farlo sentire. No, ok, allora sentiamo Francesca. Senti chi parla. Ciao Francesca, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Ciao. Ero già pronta, ai saluti a distanza via blog. Esatto, scusami, ma c'è stato così un qui pro quo. Allora, oggi parliamo dei. Vabbè, abbiamo parlato di Dante, tanto sì. In effetti stavo ascoltando la puntata e mi è venuto in mente di raccogliere alcuni neologismi danteschi a cui in prima battuta non avevo pensato, perché avrei voluto invece affrontare il tema dell'impossibilità del conio d'autore, perché ogni parola ha un autore, ha alla base qualcuno che per la prima volta la estrae, la tira fuori dalla materia linguistica. Per quanto riguarda Dante, ho pensato a inurbarsi, perché è una parola che da molti viene ritenuta invece contemporanea. Non è così, e a differenza di altre, quale imborgarsi, altro conio dantesco, ha avuto invece una fortuna che dura fino ai giorni nostri, anzi non solo una fortuna ma anche un sapore di modernità. Lo stesso dicasi per infuturarsi, che letteralmente sta per prolungarsi nel futuro, che ci fanno toccare con mano la capacità di creazione appunto di uno dei padri della lingua. Prima di pensare a Dante, invece, la mente mi era andata a D'Annunzio, perché D'Annunzio ha coniato il nome dei grandi magazzini Rinascente. Sì. A seguito di un incendio che aveva danneggiato della riapertura, a seguito di un era un copywriter, che... quindi alla sì, fine. Sì, sì, anche Saiwa sembra, o Saiva sembra essere un conio d'annunziano, così come la parola velivolo per riferirsi all'aeroplano, e poi, questo forse lo sanno in meno, la parola tramezzino, che è un modo per rendere in italiano l'inglese sandwich. Sandwich che invece è un nome, il nome di un diplomatico britannico noto per essere un giocatore di carte così accanito da non voler lasciare il tavolo di gioco neppure per mangiare, cosa che appunto lo spinse a elaborare quell'insieme di pane e companatico, è il caso di dire, che oggi in italiano chiamiamo tramezzino proprio per via della resa d'annunziana. Ecco, quindi tramezzino è una parola di D'Annunzio? Sì. Sì, sì. Ma, cioè, mi sembra una cosa incredibile, non avrei mai associato le due cose, ovviamente. Beh, è così, perché teoricamente esistono, noi parliamo di parole d'autore quando conosciamo il coniatore, sì, di una parola, e quando il coniatore corrisponde alla figura di un intellettuale di spicco, appunto di una personalità nota, però forse sarebbe più corretto parlare di creazioni e ricreazioni linguistiche, perché spesso la stessa parola viene coniata da più persone senza che l'una abbia consapevolezza del fatto che un altro in un'altra parte del mondo ha fatto la medesima cosa. Alcune parole sono in sé già pronte per essere composte all'interno di una lingua, e tutto può dare origine a una nuova parola. Pensiamo, ecco, mi riattacco alle varie cose di cui avete parlato, i film, avete nominato Marcello Mastroianni, io penso alla Dolce Vita. Dopo la Dolce Vita inizia a circolare il maglione alla Dolce Vita, lo scollo a Dolce Vita. Perché? Perché uno dei protagonisti del film indossava un maglione con quelle fatture, quindi tutto è potenzialmente verbificabile, trasformabile in parola, ci deve essere una spinta, un input, e la creazione linguistica, il conio, è il punto di arrivo di un processo che ha alla base un'attività di tipo mentale, la necessità di rendere identificabile una cosa che fino a un certo punto esisteva ma non aveva spinto alla creazione di un termine autonomo. Grazie Francesca Dragotto, sei stata illuminante come sempre. Grazie a voi anche per gli spunti interessanti che appunto mi avete dato nella parte precedente della puntata. Buona prosecuzione di domenica, a presto. Grazie, poi vi ricordo tutopoli.com per leggere il seguito di quello che Francesca aveva voluto dire, perché quando comincia Francesca poi è difficile che finisca, perché si appassiona talmente tanto, giustamente. Il riposo del guerriero. Manet in 24 minuti. Per voi la possibilità di andare a Palazzo Ducale a Venezia a vedere la mostra di Manet, Ritorno a Venezia, ammesso che riusciate ad associare il titolo di un'opera di Manet alle canzoni che vi faccio ascoltare, in particolare a questa. Tra poco partirà, ma prima il numero verde per prenotarvi: 800 24 00 24. Spiace di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiace. Allora, la canzone è molto famosa, il titolo l'avete capito, lo dice 500 volte, lui è Renato Zero, Sandro da Treviso, buona domenica, Sandro. Buongiorno a tutti. Allora, attenzione al titolo dell'opera che voglio sapere, perché bisogna essere precisi. Sì. Tu cosa diresti? Ma io penso Sulla spiaggia. Sulla spiaggia la tua risposta ed è giusta. Ecco, la mia paura è che tu dicessi solo spiaggia e dico no, è sulla spiaggia. Esatto. Bravo, bravo Sandro, e quindi ti porti a casa i biglietti per la mostra di Manet. Buona domenica. Grazie a tutti. Grazie. Voi. C'è Rosalba di Napoli, prima di sentirla però c'è un disco, ma Rosalba, credimi, anche in questo caso la risposta è facilissima, ma prima un momento della storia di Manet. Manet in 24 minuti. Con il suo carattere eversivo, Manet denunciò scomode verità della realtà ottocentesca, come il perbenismo. Affermò che ogni artista deve saper parlare del suo tempo e mostrò presto insofferenza verso una scuola di pittura che propone uno stile non più adeguato al suo periodo. All'inizio le sue opere furono apprezzate, dopo furono via via rifiutate. Nel 1863, però, si mette in testa ad una protesta da parte di molti artisti, che vengono spesso esclusi dalle mostre del tempo, poiché i loro quadri erano giudicati come non classici. Ecco un momento della storia di Manet, ma attenzione all'altro indizio che vi porta al titolo di un'opera di Manet. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder. Aveva avuto un successo straordinario questa canzone di un po' di anni fa, che l'ho ripescata semplicemente perché me la ricordavo, mi piace anche molto, sono i Fools Garden loro, Lemon Tree è il titolo della canzone. E Rosalba da Napoli, buona giornata, ciao Rosalba. Buongiorno. Sai un po' di inglese? Oddio, l'ho lasciato un po' all'università da qualche tempo. Vabbè, ho capito, però Lemon Tree sai come si può tradurre? Parte la mia pronuncia con la R all'italiana, ma fa niente, non sono un inglese né americano. E Lemon Tree sarebbe che cosa? Non tre limoni, ma l'albero di limoni. Mm. Questo è il titolo della canzone. Fools Garden sono loro. Credo che si possa tradurre come il giardino dei pazzi, una cosa del genere. Allora, secondo te, qual è il quadro di Manet legato a questa canzone? Oddio, io il bello è che l'ho visto anche, però in questo momento mi sfugge il titolo. Ma guarda, non, guarda, credimi, allora sì. Rosalba, non tolgo niente alla visita che tu hai fatto alla mostra. Allora l'ho trovato. Eccolo. Perché io... Le citron. Le citron, ovvero il limone, è certo. Anche perché c'è un limone enorme sul piatto. Non è che non si esce tanto da lì. Grazie Rosalba, buona domenica. Allora ho vinto. Sì, hai vinto, certo, grazie. Perfetto. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao, un altro momento della vita di Manet. Manet in 24 minuti. Manet morì per sifilide e reumatismi non curati contratti a 40 anni. La malattia gli causò forti dolori e una parziale paralisi negli ultimi anni di vita. Il 6 aprile 1883, dopo un estenuante tira e molla, gli venne amputato il piede sinistro, ma l'operazione non servì a risparmiarlo dalla morte, che sopraggiunse quasi un mese dopo, il 30 aprile 1883, dopo un'interminabile agonia sfociata nel coma. E insomma non finì quindi così bene, tra l'altro anche quel taglio del piede fu dolorosissimo per l'artista, si raccontano anche diversi aneddoti, poi non si sa chiaramente quale sia la verità. Con gli altri ascoltatori che non hanno partecipato ci sentiremo la settimana prossima, anche con tutti gli altri ovviamente, puntuali alle 10 con il riposo del guerriero. Grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Benedetta Acri, e c'è Peter Bescapè in regia, e a voi buona settimana da Stefano Gallarini.